presenta Shabalon, un programma di Piazzalta di e con Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica Simone, alle riprese straordinariamente Ascanio. E siamo insieme, siamo incredibilmente insieme. Anche stasera, Enzo, incredibilmente. Questo è Shabalon. Shabalon, salutiamo Piazzalta. Gli amici della diretta, gli amici che ci stanno ascoltando in podcast. Tutto questo sulla solo pagina, per voi, sulla pagina Facebook di Piazzalta. È il 28 ottobre 2016. E stasera, Enzo, come sempre, sempre. Aspetta, meglio. Sì, bravo. Serata senza rete, serata enjoy. Serata enjoy. E abbiamo calcolato che ci vorrà quasi tutta la puntata per capire il tema della serata. Allora, diciamo che passategli una cosa a lui che sta morendo. Diciamo che il discorso è così com'è messo. Di là sì, siamo alla costa di San Rocco, questo sì, è fondamentale ricordarlo. A Foiano. Stanno già arrivando alcuni amici perché parleremo di più cose. Sì. Il problema, o anzi la fortuna, è che ci sono due feste in contemporanea oltre al programma. Ci sono 150 persone che stanno ballando e soprattutto stanno cercando di essere intervistate, di partecipare a Shabalon questa sera, ma noi li teniamo fuori perché siamo una trasmissione seria, direi. Perfetto, allora andiamo con il primo brano e poi parleremo di quello di cui parleremo, di che parleremo, parlatene. Che lo decideremo tra poco. E via. Tornati insieme dopo questo Shabalon, splendido brano bellissimo. Vado che senza ora, rete vai a denucleare, no, evidentemente. C'è scritto Mr. Stereo Chemistry con Harlequin del 2016, non un'annata a caso. Vi ricordo che se state guardando in diretta ma anche in registrato potete fare una cosa semplicissima e mettere un condividere e riceverete in cambio tanto amore, ovviamente l'amore che sarà con voi. Allora, questo è Shabalon. Shabalon è un programma che non nello specifico, ora ecco, stasera dire di che cosa parliamo sarà molto difficile. Sì, io direi, Enzo, una cosa importante però è che, come hai detto te, stasera diciamo ci saranno tanti ospiti e tanti anche argomenti vari. Sì, Simone, mi alzi un po' la cassa, per favore, grazie. E il motivo è perché noi chiaramente abbiamo sempre fatto un appello che per chi aveva delle cose da dire, delle idee da proporre, delle iniziative da pubblicizzare, ma da divulgare, poteva tranquillamente, ecco, venire da noi e avrebbe avuto lo spazio. Allora, scusa se mi sono appisolato, abbiamo in programma già molte puntate importanti e interessanti, ma stasera non potevamo farlo perché, ripeto, ci sono delle feste che fra un po' sovrasteranno le nostre voci, quindi sarebbe stato impossibile, per cui la serata di questa sera... Noi ci siamo praticamente entrati in scia. È una serata enjoy. Siamo entrati in scia con la festa, con le feste che abbiamo intorno, e una serata enjoy anche per noi. Allora, dunque, quindi, detto questo... Possiamo parlare? Scusate, io direi di presentare. Sì, no, aspetta, ospite. Dopo, non ci bruciamo tutto. Rimanete lì, anzi, no, chiamate gente. Cresce il pathos, cresce la curiosità. Anche il panico. Parliamo stasera quindi con un po'. Facciamo una telefonata con Milano. Milano, perché abbiamo una radio gemellata. Esatto. E quindi parleremo con un famoso carissimo DJ che è il Bernini Riccardo. però ha iniziato un nuovo programma su una radio milanese, su una web radio. E quindi stasera ci parlerà un po' di questo. E soprattutto di come enjoyano a Milano il venerdì sera. Esatto, perché ricordiamo che la serata enjoy, ma soprattutto c'ho troppe cose qui sopra. Vabbè, e poi parleremo di un'altra cosa importantissima, aspetta che te lo dico, che sarà la Fantachiana, che diventerà una rubrica settimanale. Settimanale, ma soprattutto vedremo come questo fenomeno del fantacalcio sta impazzando ormai già da anni, è un fenomeno veramente sociale. 25 anni, però Marcello l'ha scoperto adesso. Io l'ho scoperto quest'anno. Per lui è una novità assoluta. Chiaro, l'importante, Enzo, per invecchiare bene è stupirsi, continuare a stupirsi. E cos'è la Fantachiana? Appunto è una lega di fantacalcio dove i presidenti, gli allenatori hanno voluto essere presenti, ci hanno deliziato della loro presenza e stasera saranno delle perle assolute. E, tra l'altro abbiamo, oltre che presidenti e vicepresidenti e allenatori, abbiamo anche il pubblico di chi sei. Spettatori della Fantachiana, questo è il massimo. Bene. E poi ci diranno un po' di cose. Allora abbiamo detto veramente un po' decliniamo tutto, ogni responsabilità su tutto per tutto ciò che viene dagli spalti. Vediamo un po'. Se il pubblico, no, ma tanto lo so che non è, ma vediamo un po' se, aspetta che c'ho il cameraman che fa cose chissà pazzesche, vediamo se il pubblico è pronto, grandissimi, grazie, attenzione c'è della polemica perché, già in studio, perché il dissenso regna sovrano nel fantacalcio. Dunque, aspetta guarda, che tristezza la tecnologia. Questo è l'avvertimento del fatto che stiano arrivando dei messaggi e c'è uno che dice tale Cash Kakash, nice sei ridicolo e Farnetani con i capelli peggio dell'altra volta, ma forse non sta guardando la trasmissione perché non c'è né nice né Farnetani. Comunque, il bello è che è uno degli ospiti che stiamo attendendo, sì, che deve arrivare, sarà tra l'altro il presidente della Lega Fantachiana. Allora facciamo questo silenzio di qua, disturba stasera. Sì, chissà, forse stanno tutti ascoltando a la trasmissione. A quanti minuti siamo, Simo? A 4 minuti. Allora direi di fare un'inquadratura sulla maglietta rosa di Marcello, che come vedete fa tono su tono con la nostra mascotte. E direi che possiamo andare, lo annuncio prima, guarda, il brano prossimo, e poi dopo iniziamo veramente. Sarà bellissimo, con gli argomenti della serata. Adesso sta per andare sorreggo. Gli Sportivi con Sitting by the River. Questo era facile, il disco di Fats and Days del 2015. Musica. I'm not afraid to die. canzone, il brano che avete ascoltato l'avevo già annunciato prima, per cui disannunciarlo sarebbe veramente un peccato. No, un peccato, nel senso sarebbe eccessivo. Ma stiamo per entrare. Dunque, Shabalon in diretta dalla costa di San Rocco a Foiano, diretta video e in podcast per chi ci sta riascoltando. Abbiamo un ospite che direi di mandare. Ma se usi il microfono qua, qua... proprio in onda, perché secondo me è già. Ma se parli col microfono è meglio, Marcello. Pronto? No, ecco. Vabbè. Scusate. Allora, guarda, veramente uno spritz. Pronto? È deleterio. Sì, mi senti? Quanta gioia a noi, Riccardo Bernini in diretta da Milano, ed ecco che un applauso dallo studio spontaneo. Enjoy come puoi. Io, dunque, questo è in viva voce questo telefono. Sì, è il massimo quasi. Aspetta, Riccardo, sì, è il massimo che può fare. Eccoci qua. Allora, dice, ti annuncio adesso, dico solo che, come ho già detto prima, oltre a essere un carissimo amico e un grandissimo artista, e avere un locale anche a Milano, che si chiama... Si chiama la vita. Bravo. Senti male. Ecco, possiamo ricordare, anzi stavo ricordando appunto che hai un programma radio, sei foianese ovviamente, ma ormai ti sei trasferito a Milano perché Foiano non ti bastava, hai un programma radio e raccontacelo un po'. Il programma radio si intitola Into the Groove, è un programma che parla di musica, però parliamo più che altro di ritmo e di batteria e di grandi batteristi della storia del rock, quindi le influenze, gli stili e quello che può essere il punto di vista di uno che sta dietro i tamburi, hai capito? Ecco, perché, un po' diversa, ecco. Perché te sei ormai un affermatissimo batterista, parti dalla banda de Foiano per arrivare poi a vette inusitate. No, io arrivo alla banda de Foiano, il massimo della mia carriera è quello, assolutamente. Non si può aspirare di meglio, con la banda si suona di tutto, dalle marce alla sinfonia, quindi è un range di generi musicali vastissimo, però sì, dai, affermato no, è anche abbastanza scarso, però insomma diciamo che so picchiare le pelli e quindi diciamo che metto, come dire, al centro dell'attenzione il suono della batteria dentro la musica. Beh, picchiare le pelli è tanta roba, te lo dico, cioè... Senti... Poi c'è pelle e pelle, come sempre. Beh, è qui... Senti, e invece il tuo programma quando va in onda e dove? Il mio programma va in onda su una web radio molto buona qua su Milano che si chiama Radio 23. Va in onda la diretta il mercoledì alle 4 del pomeriggio. E poi ci sono un po' di repliche nel palinsesto, lunedì sera, il martedì sera alle 11. Se no si può ascoltare in podcast, come te mi insegni, ormai la tecnologia ci consente di essere simultanei in qualsiasi momento. Esatto, infatti siamo in diretta in questo momento su Facebook, ma poi sarai per l'eternità sul nostro podcast a partire da domani sulla pagina di Piazza Alta. Aspetta che questo pernacchia è un messaggio che dice Paolo Fei dice vero, lo sapevo anch'io che picchiava parecchie pelli, tale Paolo Fei in diretta dice così. Bene, così avanti, così. Che dire, Riccardo, noi verremo ospiti alla tua trasmissione, come ti aspettiamo ospite, noi non sapremo che dire alla tua trasmissione, mentre te saprai che dire molte cose. Il problema è farmi star zitti, non farmi parlare. Quindi... genetica chianina, come dire. E anzi, noi ti sfrutteremo una volta al mese con una telefonata, così ci racconterai un po' quello che succede a Ligera e anche in giro per Milano. Magari qualcuno di chi ci ascolta non sa cosa fare, è a Milano e te gli darai dei consigli ottimi. Guarda, che meraviglia, stasera ho un gruppo che viene da Richmond, Virginia. Ah, yeah! Non la Virginia del console, è la Virginia quella degli Stati Uniti. Certo! Certo, no, lo dico per precisione, insomma. Quindi molto bravi, una specie di eredi del grunge, quindi dai, cose ne capitano qua. Dai. Beh, bene, sono contento per voi, qui le cose migliori che capitano è avere gente davanti a me adesso, ma non descrivo, non dico altro. Io Riccardo per il momento ti ringrazio, ho come l'impressione che ci vedremo domani pomeriggio. Io me lo auguro naturalmente, perché ho come l'impressione anch'io, la distanza ormai è relativa, si sa. Esatto, esatto. Aspetta che Marcello ti fa una domanda intelligente. Riccardo, allora diciamo che il ritmo batte forte anche da te. Pensa a te, questo è il massimo che ha dato. Questo, beh, però ha dato tanto. Nella sua vita. L'ho già sudato. E quanto avrai da dare ancora? Grazie Riccardo, salutaci Milano, noi ti salutiamo Foiano. Grazie a voi ragazzi, ciao caro, ciao ciao. Diretta, siete grazie, ciao. Ciao. E questa era la prima telefonata della storia di Shabalon. Se vuoi dire le due cose. Ma direi che è andata abbastanza bene, nonostante tutto, nonostante i nonostante mezzi, i mezzi non sapessi tecnici. Che il microfono andava tenuto alla bocca quando c'era il telefono. Ma sai, anche la tecnologia si evolve, voglio dire. Ma arriveremo anche ad avere l'idea di, come dire, di trasmettere il pensiero. Ma ecco, adesso cominciano le vere e proprie preoccupazioni, direi. Aspetta che ci sono un po' di messaggi. Qualcuno dice a 40 chi si spoglia, dice Stefano Giustini, perché ho detto che a 20, qui c'è uno che dice a 40 si spoglia il vacca, ma questo lo presentiamo dopo, ma solo la parte di sotto, vabbè, guarda, non sto a leggere, vabbè, ok, continuano, a 60 il Farnetani si leva il parrucchino, hanno scritto, io questo... Allora, io direi di andare ancora con un altro brano, poi ci inoltreremo nel vivo della trasmissione. Parleremo di Fantacalcio, ma non solo, perché gli altri hanno Gianluca Vacchi e noi abbiamo ben di più. Ma non svelare ancora, l'arcano. Yeah. Ed eccoci di nuovo insieme, mi sono dimenticato però, Shabalon, Piazza Alta, venerdì 28 ottobre. Sì, questo te lo sei dimenticato te, ma è stato detto ampiamente. Questo era Barbagallo. Ah, il nostro amico Carlo Barbagallo White, che tra l'altro salutiamo perché lui abita a Foligno, quindi zona... No, quello è dopo. Aiutatemi, statemi vicino. Comunque salutiamo anche Barbagallo. Passerà anche questo raro. Sarà passato una volta per Foligno, Barbagallo. Sicuramente, ma... Centro del mondo. Allora, Shabalon, abbiamo detto. Sì. Siamo a posto. Questa è serata in diretta, una serata Enjoy. E stiamo per parlare... Di che cosa è Enjoy per... Per noi. Ed per è noi. Il Fantachiana. Ed ecco anche che... Che cos'è il Fantachiana? Però prima di dire questo, vi vorrei ricordare... Tanti like... Di condividere video e altre cose, tipo lo sport che abbiamo provato a fare. Riceverete in cambio tanto amore. E allora presentiamo il Fantachiana come è giusto che sia, e iniziamo con Simone alla parte tecnica, Ascanio, e si vede la differenza fra venerdì e oggi alle riprese. Sicuramente, Enzo. Qualitativamente ci siamo elevati, però magari abbiamo professionalizzato il video. Sarà contenta la Valeria di questa cosa. No, e... a me piaceva più la versione femminile. Attenzione! A me piaceva più la versione femminile. Marco Bartoli Puccettone numero uno. Ma inquadriamo anche la nostra amica che tutti i venerdì ci porta da bere. E ci sopporta. Grazie. Ricordiamo che siamo alla costa di San Rocco. Allora, direi un attimo di entrare, di dare il giusto... Presentala te. Allora, è per me veramente un onore presentare un po' i personaggi di questa sera, i protagonisti. Fanno parte tutti della Lega Fantachiana, e per non sbagliare, visto che io sono un po' un neofita di questo argomento, passo subito la parola al presidente della Lega Fantachiana, Matteo Cassioli, che ci introdurrà sull'argomento e ci dirà aneddoti... esperienze, emozioni di questa cosa. Quando nasce, per esempio, Fantachiana? Iniziamo dall'inizio, perché? Iniziamo dall'inizio. Fantachiana, diciamo, nasce troppo tardi, purtroppo. Sì. Ma Ascanio che sta riprendendo. Non ti preoccupare, no, te parla. Neofita lo prende, non è svincolato ancora. Dai. Allora, sta, diciamo, inquadrando il logo della Fantachiana. No, ma anche con una postura invidiabile. Allora, diciamo che Fantachiana, per essere seri, giusto un minuto. E allora finisce la trasmissione. Posso? Sì. Cioè, posso essere seri. Nasce, diciamo, come la principale finalità di Fantachiana è di uscire di casa la sera, quindi le classiche scene tra uomini. Sono un po' in imbarazzo. Dai Matteo, su forza. Niente, nasce per questo scopo qui, infatti agli albori, quindi 2 anni fa, sì, era praticamente un mini campionato dove al vincitore veniva pagata la pizza da parte degli altri partecipanti. Allora, quindi, basta. Si parla di Fantacalcio, però con la scusa del Fantacalcio, 6 amici che fanno un campionato di, esatto, poche giornate. Esatto. Quasi una al mese, un campionato al mese o quasi. Praticamente veniva una al mese. Più, esatto, o meno. Perché poi chi vinceva avrebbe avuto in omaggio la pizza offerta, basta, che era la scusa per ritrovarsi. Che era una scusa per ritrovarsi. E è iniziato tutto così. Eravate in 6. Esatto. E le squadre avevano dei nomi particolari, perché tra l'altro voglio dire che dalla settimana prossima approfitteremo per fare una rubrica in cui terremo aggiornata anche la classifica, ma non solo quello. Però iniziamo da questo. Sarà interessante fare anche un po' di storia delle singole squadre che partecipano alla Lega. Scusa, non fermo, solo, fermo. Ma... La regola è questa. Prego. Allora, scusa, intanto salutiamo tanto. Fabio, Caterina, Veronica, Paolo, Federico e Marco che stanno seguendo. E Federico Puccinelli dice: in primo piano sei ancora più bello, presidente. E questo è, diciamo, è il mio vicepresidente. E quindi se vuole che sia pagato lo stipendio settimanale, questo giuro. Mi chiedono ancora, aspetta, perché c'è un altro messaggio. Ma il Milan è in Serie B, non riusciremo a parlare di niente. Ancora no, ancora. Non c'ho tanto. Allora, io dicevo, Enzo, volevo lanciare questo perché è un appuntamento che, se riscontrerà gradimento, sarà settimanale nell'ambito di Shabalon, questa rubrica dedicata al fantacalcio, alla Fantachiana ovviamente, ma soprattutto la mia idea sarebbe anche quella, per chi è interessato, di fare dei gemellaggi, oltre che Lega Fantachiana, anche nei confronti di chi è appassionato di questo sport. Basta che non siano gemellaggi tra società, perché non sono contemplati. Esatto. No, ma io intendevo gemellaggi di esperienze, di passione, di enjoy, insomma. Scusa, ci sono messaggi, io continuo. Marci dice: Caterina, anche te, no, però non scherzi, penso che di bellezza. Paolo Pantani dice: Marcello, sembri Paolo Bonolis. A che età però? Perché dopo morte, post morte. Fermiamoci un attimo, perché avevo promesso, poi continuiamo subito, Avevo promesso, che, quindi, come avevo detto, un Bonolis apocrifo. Apocrifo, che gli altri hanno Gianluca Vacchi, ma io vorrei presentare questa sera qui con noi per la prima volta Giancarlo il Vacca. Dopo Gianluca Vacchi, applauso. Per noi è un onore averti qui. Non c'ho il filo, non arriva. Ma io quello di bombolo non ci chiacchiero. Ma non ci arrivo col filo. Io volevo intanto, per cominciare, siccome sono l'allenatore della squadra di questo signore, voglio subito cambiare nome. Allora, questo è un annuncio, che lui è il nuovo, che te sei il nuovo allenatore, perché non lo sapevamo. La squadra, e da qui capirete molto di questo campionato, si chiama AC e Casse e Carnevale, Associazione Calcio e Casse e Carnevale, che però viene letto tutto insieme AC e Casse e Carnevale. Scusate, perché siamo a 20, fermi! Siamo a 20 in diretta! No, scusate, interrompiamo tutto. No, girati. Siamo a 20. No, forza. No, tutte e due, no. Siamo a 20, dai. No, ascolta, non posso... Così roviniamo tutto. La gente smette di credere. Non siamo più credibili. Marci, siamo in fascia. Una maglietta, su, una maglietta. Una, allora, la prima maglietta 20. Sotto poi c'ho quella delle olive, che ci vado a cogliere le olive. Quindi. Qui Pulcinelli dice: con la Fantachiana lo share a livelli enjoy col Vacca, se sballa, testualmente. Allora, dai, la maglietta, su. Sì, tutto, vai. La maglietta, tu, pronti? Devi parlare al microfono, Allora, questi parametri dello share non mi piacciono. Dai, che forza! Eccoci. Dai, devi toglierla! No, scusate, Marci, se rovina... Ma sulla... con la maglietta di sotto, Romina, ciao. Dai. Imbecillino. Il microfono. Siamo, che questa, capito, funziona. Siamo concreti. Comunque la colpa è mia, che mi ho fatto bere. Allora, aspetta, torniamo a noi. Vi prometto che a 30 me la tolgo io, perché questo è un ragazzo veramente. Mi dispiace. Sarebbe meglio. Benissimo. Che non è viola, è blu, però si vede viola. Dicevamo con Giancarlo, che è il nuovo allenatore della AC Casse e il Carnevale. Si cambia nome e si chiama "Hanno vinto solo con Guido Rossi". Che, per chi non è addentro, che significato ha? E diciamo che è un messaggio agli interisti in generale. Ma vabbè, io... Si chiama così sta squadra. Ho fatto un'interpretazione, vai, facciamo così. Torniamo a Marcello, gli do il microfono di bombolo, così sta più a suo agio. Ma allora vieni. Vedo rosso e bianco, chiaramente, per i colori sociali di quella posizione. Chi? Sì, ce la fa. Ha preso, saluto anche a Enrico. Ha preso delle pasticche apposta. Direi aspetta, che Paolo Fei, che saluta dicendo "fino al confine", hashtag. Allora, ora come vedete è quasi impossibile parlare del fantacalcio, ma noi lo sapevamo, tra l'altro. Lo sospettavamo, ed è per questo che bisogna prenderlo a piccole dosi, e la rubrica sarà soltanto di 3 minuti a settimana. Che diventeranno 12, perché... È chiaro. Parliamo invece con Farnetani, che è il responsabile... Shabalon, è responsabile Shabalon. Colui che tiene i contatti con le trasmissioni. questo fa capire che Lega è. No, però è vero, questo è vero. Attenta, allora, a tutto. Eravamo rimasti, ma faccio un breve riassunto io, se mi permettete. Al primo anno con 6 squadre, il secondo anno l'evoluzione è a 8 squadre, entrano anche Ace Casse e il Carnevale, ecco. E SS Tergi Lunotto. Vuoi dire gli nomi? Siamo gli a 20 nomi di nuovo? Però aspetta, ricordiamo gli altri 6. Allora, le altre 6 squadre, dunque, Tergi Lunotto e Ace Casse e il Carnevale, poi c'è FC Attila di Andrea, l'Anolo Scivolo di Federico che ha commentato e che purtroppo vince sempre, proprio come la Juve, quindi ruba. Ma il vento potrebbe cambiare. Però la cosa strana è che facendo il vicepresidente è quello che fa i conti, poi alla fine fondamentalmente vince sempre, quindi... Volevo far notare un'altra cosa, scusa. Dimmi, presidente, dimmi. No, ora svesto i panni del presidente, vesto i panni del presidente di Ceno gratis e dico che è una cosa molto strana che il presidente e il vicepresidente sono quelli che hanno vinto più titoli di tutti. Cerchiamo di far capire a chi ci ascolta, perché è difficile. E ovviamente nei partecipanti della Lega, gli stessi partecipanti sono anche presidenti e vicepresidenti della Lega. Cassioli, che è presidente di una delle squadre più vincenti, Pulcinelli è il presidente. Ho messo la pulce nell'orecchio, ho detto. Hanno vinto più di tutti. Lui fa autocritica da solo nelle vesti di presidente, esatto, della Scenocratis. Forse io ho quasi percepito il fatto che il presidente muovesse il dubbio che qualcuno rumasse nel torbido. Allora, io capisco che se qualcuno ha provato a capire, non ha capito niente. Questo è sicuro. Allora facciamo così, ci riposiamo un attimo. Enzo, è anche vero, Enzo, che ci sono delle telenovele che vanno avanti da 10.000 puntate e non si può pretendere che noi in 5 minuti. Allora facciamo così, ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un brano, tiriamo un attimo il fiato e promettiamo che spieghiamo meglio di che cosa si tratta e quello che ci vogliamo proporre per i prossimi interventi. Questo è Shabalon e sarà bellissimo. E condividete. Bad things happening to good people, to good people, make them broken and hurt. I was wondering yesterday, why is this world such a hard place to stay? Is it cause the sky is blue? Is it cause the clouds are moving too? Is it cause the universe is expanding? Oh, bad things happening to good people, make them broken and hurt. Bad things happening to good people, make them broken and hurt. Mr. Candy was a nice old man, got run over by a Mercedes Benz. Now he goes around in a chair. You see, this world is unfair to people like you and me and poor Mr. Candy. Oh, bad things happening to good people, make them broken and hurt. Bad things happening to good people, make them broken and hurt. Mrs. Plummer was a nurse at the school, stabbed in the head with a rusty spoon, walking past the Newton Hotel. Now she can't read that well. In a house with big rays in the windows. But bad things happening to good people, make them broken and hurt. Bad things happening to good people, make them broken and hurt. I was wondering yesterday, why is this world such a hard place to stay? Is it cause the sea is blue? What you say or do, one fine day you're gonna find yourself sinking in a pool of bad things. Too good people, make them broken and hurt. Bad things happening too good people, make them broken and hurt. Oh, bad things happening to good people, too good people. Beh, Bloodin Carcione con Bad Thing Good People. E ora devo salutare Bloodin Carcione, che è un nostro amico e che sta a Foligno, e facciamo un saluto perché ha partecipato, ovviamente, ci ha gratificato anche quest'anno della sua presenza. Ok, ma io volevo fare un saluto perché è nelle zone dove il terremoto ha colpito nuovamente, per fortuna tutto a posto, però insomma gli facciamo comunque un saluto esprimendogli la nostra vicinanza. Ma torniamo a fare i bischeri immediatamente, senza soluzione di continuità. C'era un messaggio di Valdambrini. Dici Giancarlo? Dare un grande augurio per la sua vita, tu una delle puntate più belle della mia carriera, seppur breve. Allora, che passiamo la parola quindi di nuovo al responsabile Shabalon del Lega Fantachiana, che ci parla un po' ancora della Fantachiana. Avevamo detto un po' di nomi, ma riniziamo da capo, diciamo le squadre per bene. Allora, spiego velocemente. Si iniziò con 6 squadre, poi la chat di WhatsApp andava di media a dai 150 ai 200 messaggi al giorno, compreso conferenze stampa finte. Si inventava come se tutto fosse vero, perché il gruppo nostro è sempre stato goliardico a 200 km orari, quindi qualsiasi cosa si poteva inventare si inventava. E il fantacalcio per noi è diverso dagli altri, nel senso che si fa un campionato ogni 5 giornate, proprio perché, come diceva Matteo, il gusto è di andare a mangiare una pizza, e quindi una volta al mese ci troviamo per fare il mercato e mangiare la pizza. Quindi da lì poi sono aumentate le squadre e sono aumentati anche i premi, non soltanto lo scudetto che dura 5 giornate, ma la Coppa Chiana, la Champions Chiana, la Supercoppa Chiana, ogni torneo con una durata diversa, 5 giornate o 6 giornate. Quindi ogni 5 giornate facciamo questo mercato, e logicamente prima e dopo il mercato ci sono commenti stile prima del grandissimo Gianluca Vacca. Gianluca Vacca è un mix. Giancarlo. E voglio dire, siccome mi onoro di partecipare anch'io a questo a questa Fantachiana, perché non vincendo mai mi onoro a partecipare e basta, ma non è così. Ma potrebbe cambiare il vento. È bravo, dillo. È cambiato l'allenatore, è cambiato tante cose. Metodo di allenamento, la preparazione. Diciamo che Aspetta. No, qui stasera in veste di responsabile Shabalon, di supporto al presidente di Lega. Quindi c'è da dire che la cosa meravigliosa di questa Lega è, come diceva appunto Simone, che la Lega vive praticamente sulla Fantachiana, sulla chat, e c'è gente che fa veramente delle conferenze stampa, che fa degli sponsor, che fa di tutto, ma alla fine quello che conta è trovarsi quella volta al mese a cena e mangiare. Poi c'è chi è più forte, chi è meno forte, chi ha più fortuna, chi è vicepresidente e si aggiusta le tabelline, e chi è presidente che perché, se la aggiusta insieme al vicepresidente. Perché, insomma, il potere logora chi non ce l'ha. Esatto, ma vorremmo fare anche delle rubriche. Per esempio, il presidente Cassoli per le prossime settimane aveva proposto delle cose, facciamogliele dire dalla sua viva voce. No, io... Sì, poi dopo vedremo quello... Vediamo un po', non voglio fare promesse agli ascoltatori, perché non voglio essere come Bernardini, che dice che si toglie la maglia e poi non se la toglie. La trasmissione non è aperta. Allora, niente, mi volevi dire... No, prego. Ma nella nostra chat succede un po' di tutto, diciamo, questo è ovvio. Certo. Nel senso, ci sono delle regole particolari, ovviamente... tra cui è consentito lamentarsi, è consentito dire parolacce, scusate. Bravo. Anzi, fai l'audio, sì, insomma, ci diciamo, sono degli inni, c'è tante... potremmo far vedere veramente tante, esatto, cose nelle potremmo prossime far vedere settimane tante o anche niente perché... no, ma faremo vedere delle faremo cose vedere. Paolo Fei fa un commento sulla tua prestazione, dice: che scioltezza, ma so, sì, perché è la prima volta che sono in televisione, quindi è un po' così. E niente, poi, ma che domande so, che ne so, farete vedere. È chiaro che anche il presidente, un presidente di Lega come Cassoli, sente un po', diciamo, la tensione sul video. Sì, perché ma io chiaramente dire... lui è un personaggio, un professionista votato al calcio, al fantacalcio, però quando si parla di... ma sai, sotto Halloween questi personaggi, questi loschi figuri riprendono a girare via per il paese. Ma perché non parliamo anche degli altri? Sì, ma infatti presidenti? Stavo venendo qua. Se ci ancora non ho parlato, per esempio, il presidente De Sibenik. Buonasera, presidente. Buonasera a lei. Perché Sibenik? Perché è una città a cui io sono molto legato, insomma, per cose affettive mie. In Croazia? In Croazia, sì, sì. Ecco, come sta andando? Questo Fantachiana, come sta dando grosse soddisfazioni? Voleva parlare a lui. Ho una media costante negli ultimi 3 anni che vado da ultimo a penultimo. È stata una coppa perché hanno perso quell'altro, ecco, diciamo che... Perché l'hai trovata per terra. Certo, certo. Allora, invece poi abbiamo il presidente di Acecas il Carnevale, buonasera. Buonasera a tutti. Diciamo che la notizia della serata è l'ingaggio del nuovo allenatore. Sì, diciamo che quest'anno il campionato non è incominciato benissimo e quindi bisogna dare una nuova svolta, e con Vacca sicuramente la svolta ci sarà. Allora, si può dire che ha acquistato il Vacca prima che il campionato vada in vacca. Scusate, sono venuto con quest'altro microfono. Sì, vabbè, ma quali dichiarazioni vuoi fare? Nel senso, su quella nuova squadra? La squadra nemmeno la conosco. Non ho capito le regole, che sono state spiegate correttamente, molto chiaramente, da chi le ha spiegate. Ma l'importante è fare spogliatoio. Quando ora ci siamo spiegati, se capirà come fare la squadra, si chiamerà Marotti Paratici a fare il mercato. Certo. Ingaggeremo loro. E poi dopo Marcello come se mi prenderà come general manager. No, ma Marcello è già il mio allenatore, quindi ha già dato delle direttive guida: no Inter, no Viola, no Torino, no Roma. È rimasto poco. A Roma sì. Okay. Se no c'era il Crotone che andava forte. Dunque, volevo dire che neanche Bernardini ha capito le regole e sta partecipando già da... Sì, no, sì. Diciamo che l'ultimo acquisto è stato Meggiorini, che veramente da brividi è stato... Ma Augusto è uno spettatore come Emiliano, che sono imprescindibili dalla nostra trasmissione. A quanto siamo? Scusa, ora voi non sentite, ma stanno succedendo cose un po' come era previsto, tra l'altro. Qui si va sul personale. Volevo chiedere sempre a Farnetani, che hanno organizzato anche dei gadget. Scusate, passo davanti. Sì, perché Fantachiana non è soltanto calcio, ma anche merchandising. Merchandising, esattamente. No, allora, questo è stato fatto il logo. Non ha avuto mai un logo la Lega, quindi l'obiettivo sarebbe quello di coinvolgere più gente possibile, perché poi alla fine penso che se un gruppo di quarantenni si diverte a giocare, può darsi che ci sia altri quarantenni che si divertano a giocare con noi. E se mi permette, quindi, presidente, volevo supportare quello che sta dicendo, perché finora abbiamo sentito che le squadre e comunque la Lega tutta si rifanno un po' al territorio, al nostro territorio, e anche il pregevolissimo sì. Marchio, il pregevolissimo logo un prodotto tipico della zona valdichiana. In realtà sono due prodotti tipici. Ora è il cinghiale che si affaccia nel tricolore, sì, dove era presente il maiale, che è il re della tavola. Esatto. Ma diciamo che l'ha scalciato, perché noi siamo 8 cinghiali, ecco. Però comunque lo tiene per il codo, perché dice comunque... Ci può essere utile, perché alle origini bisogna sempre ritornare. Sì, approfitto per salutare Laura, e poi c'è una serie di... Ecco, ok. Poi Stefano Giustini chiede al cameraman se ha fatto un master di riprese durante il terremoto. Ha fatto un master chef lui. In cucina, però. Federico Pulcinelli dice: con Vacca allenatore alla Cecasse il tricolore. E Marco Bartoli dice: il maiale volevi rubare di ma antica, questo ora diciamo di antica che, di antica memoria. Tutti i gadget sono in vendita. no come è da comunicazione odierna, non si può parlare di denaro, perché la Lega è un ente no profit. Ma infatti mica ha detto di quanto, ha detto solo in vendita. In vendita, allora io andrei con un brano, perché mi sa che siamo arrivati anche a 10 minuti, vero Simo? Vabbè, ma perché qui il momento era bello e quindi siamo andati. Catartico, quindi musica, direi, sì. E torniamo tra un po'. Shabalon. Provo a dirvi anche il nome di questo brano. Qual è il sesto? Il quinto, Monkey World con Let Your... Aspetta che non vedo, Let Your Hammer Ring. Bellissimo, bellissimo. Questo era quasi accettabile. Orecchiabile, allora, direi. Ci sono dei complimenti da parte di Giancarlo il Bacca a colui che ha stilato il regolamento, che non è il presidente. Il regolamento, la storia della... La storia della Fantachiana fatta per l'occasione. Quindi, se vuoi dire qualcos'altro su questa, noi siamo qui apposta per te. Le cose ce n'è tante, nel senso che poi, ti dicevo prima, da 6 si passò a 8. 8, logicamente, la chat esplose di novità, e litigate, presidenti che si dimettevano, elezioni del presidente, ecco, vicepresidente. Quante volte sono stati eletti i presidenti di Lega? La domanda tra le righe è quante volte manno a me. L'ultima settimana tre volte. L'ultima settimana tre volte, in tutto penso saranno 12-13 volte, di cui ne ho vinta una volta sola, perché ho puntato tante volte a fare presidente, mai riuscito. Perché lui è una colonna portante del fantacalcio. È una colonna soprattutto. Ecco, tra l'altro, ecco, abbiamo, però in questo caso faccio il presentatore, avete una sede. Abbiamo una sede che la diciamo, che è Villa, allora è la vecchia sede da Tinto, che era lui è il vero presidente onorario, scusa, ma lui solo quando sì. non funziona. Ora è Villa Pomarancio. Ora è Villa Pomarancio. Ora è Villa Pomarancio. Però salutiamo Riccardo e Tinto nell'occasione, che non so se... Alighiero non lo conoscerete per Alighiero. Tu sento nei commenti durante il mercato che sono applausi molto e giro alti. Di Ascanio. Sì, cuore, vai, cuore. Ecco il giro. No, diciamo che Alighiero è il vero presidente, il presidente sì, storico. Sì, storico. Se puoi prendere anche un martello e picchiare per terra, non ci sono problemi. Allora, poi il clou è stato fatto, e qui chiedo a voi di invitarlo e leggerlo, perché il clou è stato fatto quando a fine campionato l'anno scorso, a fine stagione 2015-2016, c'è stato il gran galà della Lega Fantachiana, con una mega mangiata che il presidente Sibenik ha gestito per ordinare tutto. Uno dei momenti più difficili per uno di noi, in quanto no, il presidente non era presente. No, presidente, il momento più difficile, pensavo tu parlassi quando quel cane accanto a noi. No, no, no, no, no, ti prego, andiamo oltre. Andiamo oltre. Ci però fu il Gran Galà, a parte il Gran Galà con il presidente. Non vorrei scivolo, sta rischiando una multa perché sai che è un argomento che è vicepresidente tabù, che fece il testamento della Lega Fantachiana, che fu una cosa, per chi poi segue il carnevale, quindi ne è parecchio dentro, fu una cosa meravigliosa, e quella da sentire, ecco. Quella io direi che più di farla sentire questa sera, potremmo una di queste sere mettere sulla nostra pagina proprio il file, che tanto ne abbiamo dei file di quella serata lì, e così almeno tutti potranno usufruirne. Esatto, perché ricordo che se vogliamo ricordare per esempio SS Tergi Lunotto, il nome sarebbe Sono Senza Tergi Lunotto, perché c'è stato un periodo in cui appena comprata l'auto spariva sempre il Tergi Lunotto, non... boh. Poi per esempio Orario Tinto se può spiegare. Ma no, questa è una cosa che capitava a me, diciamo così, ma forse poi se lo dico qualcuno condividerà, insomma, diciamo che in generale sta andando a mangiare da mitico presidente Tinto la mattina alle 8 puntualmente. Regolarità, regolarità, perfetto. Mentre FCC non gratis. Questa era banale perché ai tempi, prima di assumere Cocci, che Cocci è rinomatamente la persona più sfortunata di Foiano e forse anche della provincia, prima di assumere Cocci io vincevo e quindi cenavo gratis quando andavo con loro, mentre adesso, un esempio banalissimo, abbiamo preso Higuain 36 l'anno scorso, 6 quest'anno, 3 giornate che ce l'ho io. Poi abbiamo altri, Sibeni che ce l'ha spiegato, Ascecasse il carnevale, beh, mi sembra abbastanza. Vabbè, te l'attaccamento al carnevale, la passione e la dedizione che, certo, che si dà. Certo, non poi non lo scivolo, non lo diciamo. No, no, ma nel senso che stelle, perché diciamo non lo scivolo è il nome abbreviato, sarebbe non lo scivolo PM, che non si sono pomeridiane. E praticamente nella chat, nella prima chat venne scritto come chiamerete la vostra squadra. Io avevo prestato uno scivolino a Pulcinelli, dei bambini, lui era la sesta volta che se lo dimenticava a macchina e mi scrisse: no, lo scivolo, porca miseria. E da lì il nome della squadra. Quindi, è, no, lo scivolo, porca miseria. Nascono proprio i nomi dalle piccole cose. Sì, sì. Che però denotano e connotano tutto i rapporti che ci sono tra di voi e l'amicizia. Che... un altro bel nome, scusa se ti interrompo, Bernardini, che tanto stasera vedo che sei un po' in difficoltà, è Attila. Sì, perché Attila di Nice, sì, cioè ogni lettera è una categoria di YouPorn, quindi è A punto T punto, quindi è un acronimo. Sì, T. Fermiamoci qui. Fermiamoci qui. Per i coltori. Aspetta. L'ultima squadra, credo quella non nominata, che però in quest'annata sta facendo grossi risultati. Sta spopolando perché ha fatto una campagna acquisti intelligente. Africa Bambata di Demetrio, che se può spiegare, ma anche no, ma credo che se capisce abbastanza. Vabbè, così. Basta, ok. Salutiamo ancora delle altre persone che stanno seguendo, che sono Marco Bartoli, che dice: posso portare il Pantani a cantare, pensami, di Julio Iglesias, qui dice alla Costa di San Rocco, perché a casa sua mangiare i costolici. Poi abbiamo Massimo e Simone che si sono collegati in questo momento. Paolo Fe che dice: allora porta il costoliccio invece che il Pantani. Un saluto anche a Cecilia che ha preso in questo momento parte alla sessione. Siamo di 9 a 16. Se arrivassimo a 20 nuovamente me la toglierei io la maglietta, perché tanto Marcello è un parolaio. Avrete capito che stasera coordino male i movimenti. Cioè incrociare le braccia per togliermi la maglietta comincia a essere non lo so, insomma. Senti là. Ascolta, per uno spritz. No. Dunque, vorrei far fare una dichiarazione non a Giancarlo. Non è alla facoltà, presidente. Devi dirmi come pensate, quanti titoli pensi di vincere quest'anno nella Fantachiana, ora che hai preso in mano la Ascecasse del Carnevale? Vincere i titoli è sempre difficile. Ci sono tante squadre che vorrebbero vincere, ma ne vince sempre una, non voglio di chi, però se ne vince sempre una. Dicevo, e dunque bisognerà prima creare la società, poi dopo gli errori della società si creerà la squadra. Quindi c'è da rifondare totalmente la squadra. La squadra che non vince bisogna fare così, o se no si chiama cinesi. Valdambrini, scusa, ma il tuo migliore attaccante al momento è Nestor Roschi. Quindi... ecco, siamo belli vestiti. Però se vuoi per Nestor Roschi te do Kalinic. Aspetta. Ha preso parte il signor Augusto, tanto fantastico. Però se vuoi Giancarlo per Nestor Roschi te do Kalinic, se lo vuoi Kalinic te lo do. C'è, esatto. Aspetta Giancarlo. Scusami. L'unico giocatore che mi vorrebbe piacere della... che è Granata, è l'unico. Il resto non si può prendere in... siamo totalmente a sé, non si può prendere in tre squadre. Allora Enzo, sono quasi le 23, io direi che uno spaccato di come i 35-40 anni appassionati di calcio, forse se anche tutto il calcio in generale fosse preso con la leggerezza con cui abbiamo sentito stasera, io... Salutiamo anche Simona Catalani che si è collegata in questo momento. Che voleva... chi è? Allora, se mi dite che ore sono all'incirca, sono le 23, sono le 11. Allora, scusa, ora siete da noia? Allora, fermi tutti. Siamo arrivati in fondo. È stata una serata, non è poco, È stata una serata un po' così, ma ce l'aspettavamo. Sì. Grazie a tutti. Ci sono commenti. Se fai un giro Asca così ringraziamo tutti nome per nome, Simone, Matteo, io un altro giro non lo reggo. Emiliano, Augusto, Giancarlo, Marco, Andrea che sono stati qui con noi e ci facciamo un applauso fra tutti. Abbiamo parlato soprattutto della Fantachiana in questa serata Enjoy. Vi raccomando di condividere il più possibile e l'amore vi si ripercuoterà, oppure mettete anche, ormai lo fate, mi piace, non può vedere. Comunque saluto la Valeria che stasera non è stata qui con noi, ringrazio Ascanio che ci ha sostituito, ringrazio tutti voi, viva la Fantachiana, viva Shabalon, viva Piazzalta, viva Piazzalta, viva in generale, sì, no, non in generale, la costa di San Rocco, cioè è uno tra i peggiori presentatori che abbia mai visto. No, ma è lo spritz, però, ragazzi. Mi ritaglio il mio spazio anch'io. Noi del pop, partito opposizione a prescindere contro il presidente. Che ci sta. Che vi siete salutati voi due, si saluta anche Simone. Simone Ore, che è il responsabile artistico, diciamo, musicale. Proprio niente, sì, della musica. No, no, ma gli amici che ascoltano in podcast la sentiranno. Allora abbiamo finito, ora faccio questa ignobile sigla finale e ci potete riseguire mille volte riguardandolo e al prossimo spot. Se il presidente vuol dire qualcosa per finire. Io dico ringrazio lo spazio che ci avete dedicato e niente. Ci vediamo presto. Buon appetito perché noi andiamo a cena. La F per... Marci, dimmi. Concludi tu con una tua massima. No, ora in questo momento mi avete messo di... cioè mi state mettendo mentalmente in un angolo, ora ci devo riflettere. Avete ascoltato e visto Shabalon, un programma di e con Enzo e stasera Marcello, alla conduzione tecnica Simone One. Alle riprese Ascanio. Aerea. No, dovevi dire. Grazie alla Fantachiana. Ana. Ci vediamo, ci sentiamo e ci becchiamo sulla pagina Facebook di Piazzalta. Ciao.